sarà un sogno nel cassetto, la sua vita e la danza. Passa i giorni ballando con la musica a palla. Sarà appena 16 anni, sente il mondo tra le mani. Quando libera il suo corpo su quei ritmi tribali. Non le frega dei ragazzi, un'inutile fatica. Una volta per amore ha tradito una sua amica. Vive solo di sogni perché i sogni son vita. E la vita a quell'età è più sogno che realtà. Ha saltato la scuola per tutto il mese di maggio per organizzare la serata del saggio. Quando si tratta di ballare allora Sara non è indugi, perché sa che nella vita siamo solo di passaggio. La madre è preoccupata però lei non l'ascolta. È appena ragazzina ma si sente già donna. Quante lacrime versate tra le braccia di nonna, perché è l'unica persona che capisce cosa prova. Sono 12 ore dall'alba al tramonto, 3 minuti e 20 per questo racconto. Conto 9 mesi per poter venire al mondo. Per spegnere la luce basterebbe un secondo. Ma quanto avrei voluto regalarti un sogno. Regalarti un sogno. È tutto pronto per domani, sarà molta paura di salire su quel palco e fare brutta figura. Sono a letto malata, ma con forza la rassicura. Ballerai come una dea, devi avere fiducia. Una sua amica le telefona invitandola ad uscire. Lei non sa che dire, ma alla fine decide. In fondo che c'è di male nel volersi divertire. In fondo che c'è di male nel volersi divertire. Due ragazzine vestite come le dive dei poster. I ragazzi le guardano come fossero due star. Sare molto rilassate, domani ce la farà. Se ne torna verso casa colma di felicità. Percorre quella strada sempre poco affollata. Ma ad un tratto due luci, poi una grossa frenata. Non chiedermi chi è stato, come cazzo è andata. Io so solo che da terra Sara non si è più rialzata. Solo 12 ore dall'alba al tramonto, 3 minuti e 20 per questo racconto. Conto 9 mesi per poter venire al mondo. Fumando tranquillamente, senza pensare minimamente ad allacciare la cintura. Poi aspetto ansiosamente che usciate per strada, così vi mando all'altro mondo come ho fatto con Sara. E se tra un paio d'anni riusciranno a beccarmi, riuscirò a scarcerarmi con la buona condotta. E se apparirò per